Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Non ci resta che augurarvi una buona domenica, che ringraziare Walter per la consueta espertissima regia, per ringraziare voi tutti della vostra attenzione e per altresì rinnovarvi l'appuntamento domenica prossima alla medesima ora. Grazie a tutti. Salve.